il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Iniziamo al contrario questa nuova puntata del quadrifoglio, ovvero partiamo da una notizia. Qualcuno ricorderà che in una puntata di febbraio avevamo parlato di un particolare angolo di verde che si trova a Padova, lungo via Raggio di Sole, il giardino Zantomio, ovvero un luogo abitato per decenni da una famiglia di vivaisti storici, ma chiuso ormai da anni con le vecchie serre in vetro abbandonate. Questo giardino era divenuto nel tempo anche un'oasi che aveva iniziato a vivere di vita propria, con i suoi colori, i suoi profumi e a dare rifugio a stormi di uccelli. Un comitato di cittadini, coordinato dalla professoressa Maria Pia Cunico, ospite della nostra trasmissione appunto a febbraio, si era attivato per salvare questo giardino da una variante urbanistica che ne metteva a rischio la sopravvivenza, trasformandolo in area edificabile. Ora, a distanza di quasi 3 mesi, la professoressa Cunico ci ha contattati per darci notizie positive per il giardino. Grazie al sostegno di tanti cittadini e di moltissimi comitati, ci ha scritto, state raccolte più di 1000 firme a testimonianza del particolare valore di questo giardino nella memoria dei cittadini padovani. La soprintendenza alle belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, interessatasi al caso su nostra segnalazione, si è impegnata nella difesa del complesso Zantomio che è risultato sottoposto a tutela dalle normative esistenti in regime di salvaguardia. In poche parole, il giardino sembra essere stato salvato e il comitato ringrazia tutti i cittadini che se ne sono interessati. Ecco, ci uniamo anche noi a questi ringraziamenti per questa bella notizia, avendo fatto nel nostro piccolo anche la nostra parte dando voce a questo appello. Cambiamo argomento ed entriamo ora nel merito della trasmissione di oggi, ed è veramente un argomento totalmente diverso. Parliamo infatti di gastronomia. L'occasione ci viene data dall'incontro con Davide Paolini, giornalista e noto gastronauta, proprio così si definisce, con un termine che vuole indicare colui che ha scelto di mangiare con la propria testa, capace di godere dei sapori più ruspanti ma non accontentandosi dei luoghi comuni culinari. Davide Paolini firma dal 1983 la rubrica domenicale di Cibo e Vino sul Sole 24 Ore, la guida ai ristoranti d'Italia e dal 1999 ogni sabato mattina cura la trasmissione radiofonica di Radio 24 che si intitola appunto Il Gastronauta. Tra le sue varie attività vi è anche quella di promotore di fiere del buon cibo. L'ultima nata è qui nel Veneto, dove Paolini ha lavorato tra l'altro per 7 anni come capo ufficio comunicazione del gruppo Benetton. Da sabato 14 a lunedì 16 maggio, negli spazi dell'ex filanda di Santa Lucia di Piave, si tiene Gourmandia, le terre golose del gastronauta. Un weekend lungo all'insegna del gusto con centinaia di produttori artigianali italiani, ma anche laboratori per conoscere i protagonisti dell'enogastronomia nazionale, con alcuni tra i maggiori chef chiamati non a cucinare ma a raccontare, come Gualtiero Marchesi, Iginio Massari e Gianfranco Vissani. Davide Paolini, perché questa manifestazione in Veneto e proprio in una filanda a Santa Lucia di Piave? Ma in Veneto perché io faccio già una manifestazione a Firenze e una a Milano. E avevo pensato al Veneto perché secondo me è un territorio molto ricco di produzioni, ma al tempo stesso, visto che è ricco di produzioni, è anche gente che se produce capisce anche di cibo e quindi anche di consumatori. Quindi questa è stata la scelta. Santa Lucia è stata, direi, casuale, perché mi hanno detto vai a vedere questo posto, perché io non amo i luoghi fieristici, quindi amo luoghi che, pur questa essendo la fiera che si chiama Fiera di Santa Lucia, non è una fiera tradizionale con lo spazio tradizionale costruito da poco tempo ad hoc, ma è una filanda dove c'è stato artigianato. Allora, siccome io porto avanti sempre il discorso dell'artigianato del cibo, questa, diciamo, immagine mi è piaciuta per poter portare questo evento. Ecco, a livello di artigianato, voi avete invitato a questa manifestazione una serie di chef, però tu hai detto che in realtà la cucina italiana non è quella che ci fa conoscere nel mondo, ma non promuove realmente la produzione, l'industria e diciamo anche l'artigianato del cibo. Ma perché io penso che cucina italiana sia semplicemente un bellissimo marchio, però che non produca niente. Io credo che quello che produce sono i produttori, sono gli artigiani, sono gli agricoltori, sono i pescatori, sono i mugnai, sono quindi dalla materia prima fino alla lavorazione del prodotto. Poi il cuoco se non, fa, può benissimo cucinare e fare degli ottimi prodotti, fare degli ottimi piatti, però se dietro non c'è la materia prima è inutile, la materia prima è la base di tutto e quindi io credo che valga la pena più di valorizzare la materia prima rispetto al cucinato. Ma quindi i turisti che vengono in Italia anche perché scelgono la cucina e il vino, scelgono il prodotto, quindi non necessariamente la cucina, ma il fatto che sanno che qui ci sono prodotti di un certo tipo, unici, che non si trovano da altre parti, oppure no? La cucina italiana è una cucina di prodotto, anche se si vuol far diventare qualche cos'altro negli ultimi anni. Quindi è evidente che lo straniero che viene in Italia apprezza le cucine dei vari territori, non apprezza la cucina dell'alta cucina. All'alta cucina ci vanno ben in pochi. All'estero quello che si afferma non è mai l'alta cucina, è sempre una cucina italiana verace. Quindi sono convinto che se si afferma la cucina verace italiana, la base di tutto è il merito e del prodotto. Quindi è giusto valorizzare il prodotto. In Italia si dà troppa importanza oggi, negli ultimi 5-6 anni, allo chef rispetto al produttore. Io credo che bisogna ribaltare questa logica. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Comunque andare, anche quando ti senti morire, per non restare a fare niente, aspettando la fine. Andare, perché ferma non sai stare, ti ostinerai a cercare la luce sul fondo delle cose. Svanire, non saperti risparmiare, ma giocartela fino alla fine. torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di gastronomia, stiamo parlando con Davide Paolini, giornalista e noto gastronauta, promotore della fiera Gourmandia, le terre golose del gastronauta, che si tiene a Santa Lucia di Piave da sabato 14 a lunedì 16 maggio. Ci sono però tantissimi prodotti tipici, anche un po' di nicchia, che nel nostro territorio si fa fatica un po' a fare squadra, abbiamo tanto... Come si dovrebbe fare per riuscire a promuoverci un po' meglio? Questo è un problema molto annoso che non ci permette di migliorare e di far migliorare molti produttori economicamente. Ma la verità è che, da quanto ho notato io in giro per l'Italia, ormai da 30 anni, il produttore italiano, l'artigiano italiano, l'agricoltore italiano è tutto preso da ottenere un prodotto di grandissima qualità e poco attento al marketing. Poco attento alla vendita. E diciamo che per lui è un vantaggio, come posso dire, un merito fare uno straordinario prodotto più che venderlo. Ecco, qui secondo me sta un po' la base della testa di questi nostri produttori, che bisognerebbe cambiargli la testa, ma è molto difficile perché tutti sono innamorati, troppo innamorati di quello che fanno. Nel Veneto, ultima domanda, anche nel Veneto abbiamo tantissimi prodotti e forse siamo una regione tipica di quello che abbiamo appena detto, la difficoltà di farsi conoscere e di andare un po' in ordine sparso. Abbiamo in realtà il prosecco che sembra andare in controtendenza. Vedi qualche cos'altro nella nostra regione che potrebbe seguire questa strada? Ma sai, il radicchio è stato un altro trascinatore per far conoscere questi territori. Secondo me si è mancato di far distinguere il radicchio rosso dagli altri radicchi, che sono ad esempio molto interessanti, come quello di Castelfranco. Ecco, lì bisognava forse differenziare di più, magari far capire che uno era adatto per certi piatti, l'altro per altri piatti, era un modo per differenziarlo. Beh, ci sono degli ottimi formaggi in Veneto, anzi devo dire che la produzione casearia è molto interessante. E poi qua e là ci sono anche dei prodotti di salumeria che sono secondo me da valorizzare, quindi non c'è solo il prosecco. Diciamo che il prosecco è diventato uno spartitraffico, cioè è diventato un iceberg da rompere tutti i ghiacci di tutte le conoscenze, quindi dietro questo prodotto secondo me devono andare tutti gli altri, perché sicuramente è un prodotto ormai conosciuto in tutto il mondo, quindi è un modo per far conoscere la produzione veneta. Non solo per il Veneto, ma ormai anche per l'Italia, il prosecco è emblema dell'Italia, non è solo del Veneto. Sì, è diventato il must di tutto il vino italiano. Secondo me bisogna stare attenti a una cosa, prodotto di successo mondiale ormai innegabile, insomma. Ma bisogna stare attenti che non diventi una commodities. Allargando, io non so dove si andrà a finire sulla qualità. Ecco, bisognerebbe che stare molto attenti, perché abbiamo avuto 30 anni fa un caso del Lambrusco che sembrava che conquistasse il mondo, conquistasse l'America, poi il livello della produzione si è abbassato, abbiamo visto com'è finita. Grazie. Appuntamento quindi a Santa Lucia di Piave nella ex Filanda per chi volesse partecipare a questo nuovo appuntamento del gusto. Ricordiamo, da sabato 14 a lunedì 16 di maggio, ingresso per gli adulti 10 euro, per i bambini dai 16 ai 12 anni 5 euro. Andiamo a concludere questa trasmissione con un paio di notizie. Bosco Nordio compie 45 anni. Domenica 15 maggio, giornata aperta della riserva naturale integrale gestita da Veneto Agricoltura nei pressi di Chioggia. Sono previste visite guidate agli ambienti della Lecceta e delle dune fossili, la visione di filmati e una mostra sulle attività di ricerca e di monitoraggio. Agriturismo. La giunta regionale, rende noto Confagricoltura Veneto, ha approvato le nuove disposizioni applicative della normativa in materia di agriturismo, riguardanti le percentuali di approvvigionamento delle materie prime da parte delle imprese agrituristiche, che sono circa 1.400 nel Veneto. Se per la preparazione dei pasti è confermato l'obbligo per gli agriturismi della Regione di adoperare non più del 15% del totale di prodotti acquistati dal libero mercato di distribuzione alimentare, viene invece abbassata dal 65% al 50% e al 25% nelle zone montane la percentuale di prodotto proveniente direttamente dall'azienda agricola, purché la differenza sia coperta da prodotti tipici, piccole produzioni locali, prodotti biologici certificati, a marchio, e purché tali prodotti provengano da altre aziende agricole o imprese artigiane aventi sede nel territorio regionale. Inoltre è stato stabilito di ritenere prodotto aziendale anche quello proveniente da società con sede produttiva nel Veneto, cui l'azienda stessa aderisca e conferisca la materia prima necessaria per ottenerlo. Infine è stata disciplinata una prassi caratteristica della regione veneta, concedendo agli agriturismi di svolgere una sorta di servizio di cottura a favore dei cacciatori che si presentino in azienda con la selvaggina abbattuta, questo per non più di 20 giornate all'anno. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.